due parole mie, altre due della Stefi e poi un fiume della Prette. E ovviamente ci sarà modo di dialogare con domande, interventi, insomma, secondo la modalità consueta. Due cose, appunto. Questo libro muove da una forte istanza etica, la stessa a cui siamo chiamati tutti rispetto a quanto accade intorno a noi, fuori del nostro giardinetto, e questa esigenza innerva l'intero libro, l'intera ricerca, ed è uno dei punti forti da cui non si può prescindere se non si vuole rivolgere lo sguardo altrove. Oltre a questa esigenza, però, a mio avviso c'è una considerazione che va tenuta ben presente, perché nel caso delle prigioni israeliane, delle tecnologie di controllo, di controinsurrezione, vale quello che è sempre valso nelle guerre coloniali del passato, sia che si tratti di dispositivi carcerari. Sappiamo come il circuito degli speciali in Italia debba tantissimo al circuito della detenzione coloniale antinsurrezionale in Kenya. Le tecnologie di affrontamento sono sempre state prima sperimentate nelle guerre coloniali e poi importate in patria. I tempi della controinformazione furono molti gli studi che chiarirono, come ad esempio nel caso britannico, quanto era stato sperimentato nelle guerre d'Oriente e poi in Irlanda del Nord, è stato poi introdotto nel controllo delle popolazioni sul suolo della madrepatria. Ecco, questa attenzione il libro contiene molti elementi a riguardo, essendo opera di una compagna che molto tempo ha dedicato allo studio dei dispositivi penali e del sistema delle torture inframurarie in carcere. Ecco, questa attenzione è doverosa, quest'occhio che è rivolto non solo verso il fratello altro, ma che deve rivolgersi e fare il giro, perché comune è la catena in un sistema ben graduato, da un livello massimo di afflizione a un'immaterialità che mette in campo meccanismi consensuali di ricatto, però è finito il tempo anche da questo punto di vista dell'orientalismo, dell'idea che esista un altrove lontano. la guerra è dentro fuori i confini, l'attenzione pratica, la solidarietà militante, mettersi in mezzo ai destini dei fratelli di là dal mare, è innanzitutto un atteggiamento di conservazione, di un'applicazione politica del principio di autotutela, di attenzione, perché nella dinamica della crisi, nel nuovo disordine che è oramai imperante, le isole di tranquillità, di rispetto delle regole, di vigenza della tradizione liberale democratica si restringono vie più e lasciano il posto a una circolarità delle tecniche, dei dispositivi, delle polizie. Da ultimo avrete letto come si stia parlando oramai di una ICE europea. Le ultime decisioni sono in questo senso, quindi il peggio viaggia molto velocemente, se non stiamo attenti ce lo ritroviamo sulla schiena mentre ancora coltiviamo vecchie illusioni. Questa è la prima considerazione che mi sentivo di fare. Il libro dà sostanza molto precisa, drammatica e urtante a questa mia considerazione. La seconda cosa è che fortunatamente questo libro, oltre che inserirsi in una serie di iniziative che in questo posto, come in vari altri, si è cercato di organizzare, certo, al di sotto delle necessità, sempre con uno scarto molto grosso tra quello che sarebbe necessario e quello che si riesce a fare, con delle punte positive, spesso che si determinano al di fuori della nostra capacità di intervento. Insomma, le piazze di settembre e ottobre piene di giovani, che sono state forse la cosa più importante della recente cronaca politica italiana, non si sono riempite grazie a noi, bensì grazie a un meccanismo di circolazione delle conoscenze, della consapevolezza, delle idee, che noi dobbiamo innanzitutto apprendere, perché quella presenza in piazza dice che questa circolazione è avvenuta e che non è episodica, che maturerà qualche cosa. Se vogliamo esserci, dobbiamo innanzitutto, a mio avviso, capire come hanno fatto queste decine, centinaia di migliaia di manifestanti, soprattutto giovani, a rispondere alla chiamata. Ecco, però dicevo che questo libro continua una piccola tradizione che è esistita ed è continuata nonostante tutte le difficoltà, che voglio accennarvi brevissimamente. Una compagna mi ha raccontato di recente di come fossero portati in Italia i documenti relativi alla prigionia palestinese in Israele, dalla Germania attraverso giri di solidarietà militante tedesca, tradotti dal tedesco in italiano e poi fatti arrivare nelle redazioni delle riviste, delle radio allora esistenti. Ecco, un filo di solidarietà internazionalista e di controinformazione che doveva fare questo giro un po' strano, se vuoi, ma che in realtà si spiega bene politicamente, dalla Germania per arrivare in Italia ed essere messo a disposizione dei compagni e degli interessati italiani. Questa era una delle modalità di circolazione della documentazione allora. Oggi ce ne sono tante altre, ma comunque sempre è in una prossimità nell'intesa solidale che circolano le idee, le informazioni forti, non è certo solo l'esistenza di possibilità tecniche a permetterle, anche perché uno degli aspetti della situazione presente consiste proprio nella scomparsa dell'informazione giornalistica mainstream o comunque regolare quando inizia la guerra guerreggiata e la libertà di informazione svanisce dall'embedment dei tempi della prima e seconda guerra in Iraq, si è passati al silenziamento totale per quanto riguarda il giornalismo occidentale, l'ammazzamento diretto per quanto riguarda le fonti giornalistiche in loco. Ecco, io volevo dire solo queste due cose e fare un'ultima domanda, nel senso che quando ci fu l'incontro con Pisa Palestina che si svolse al Sol Cobas, una compagna che lavora come ricercatrice a New York aveva riferito di un progetto di ricerca sulle scritture palestinesi in carcere, una cosa molto molto molto grossa per come la descriveva, cioè una grossa raccolta di testimonianze, di diari, di lettere che si sono riusciti a salvare, a conservare. Ecco, volevo approfittare della serata per sapere se la cosa esiste ancora, se sei informata, se sta andando avanti, altrimenti vediamo di recuperare quel contatto. Però insomma sembrava una cosa molto, molto interessante e valida, quindi se dopo aver esposto i contenuti principali del tuo libro vuoi darci delle informazioni, ci fai cosa gradita. Ecco. Basta così, adesso la Stefi e poi... Va bene, cioè no, vabbè. Niente, prendiamo poco tempo perché mi sa che altrimenti insomma si perde la concentrazione sulla presentazione del libro che farà Maria Rita Prete. Io volevo soltanto dire due cose. Il titolo del libro parla chiaro, si tratta di prigionieri palestinesi, i prigionieri e le prigioniere sono figure di primaria importanza nella vita e nella resistenza palestinese. Ma prima di dire due parole su questo, ci tenevo a ricordare che a Gaza non è finito proprio nulla, la situazione... Le persone continuano a morire tutti i giorni, la situazione è decisamente e drammaticamente disperata. C'è questa linea gialla che è stata così definita da Israele come sempre, come sembrava temporanea, ora diventa una frontiera definitiva. Hanno costruito 32 avamposti con trincee e una barriera di 16 chilometri, si tratta di un'appropriazione indebita, come sempre ha fatto Israele, di altri 54% del territorio della striscia, e soprattutto è diventata causa di uccisione di uomini, donne, bambini e bambine che compiono l'errore di attraversare questa linea gialla che manco sanno dov'è. E quindi in Cisgiordania, come sapete, i coloni, sempre peggio ancora di quanto è successo finora, si muovono in modo inquietante, devastando e aggredendo la popolazione. Do soltanto dei flash delle ultime cose. Una commissione parlamentare ha dato il via libera alla Knesset per una legge che prevede la pena di morte per i terroristi, ovviamente solo palestinesi, non certo per gli israeliani che stanno compiendo un genocidio. E questa pena di morte naturalmente è supportata da Ben Gvir, il colono maledetto che è ministro della sicurezza nazionale, che offre dolcetti per festeggiare questa approvazione. Si porta una spilletta con un cappio, come tutti i suoi adepti se la portano. In Libano sta succedendo quello che sapete: è già stato minacciato il Libano di essere trasformato in una nuova Gaza, e adesso la striscia del sud del Libano, per 30 chilometri superando il famoso limite del fiume Litani, diventerà un territorio tipo il Golan, cioè di proprietà degli israeliani. Tutto questo avviene mentre ovviamente non se ne parla praticamente più, ma comunque sia in Italia a volte i giornalisti dicono ma non, i nostri giornalisti non possono entrare a Gaza, ma anche se ci entrassero che cosa ci porterebbero, visto che abbiamo, in tutti questi anni abbiamo visto benissimo la loro sudditanza e la loro accondiscendenza evidente alla propaganda delle democrazie occidentali colonialiste. Mi permetto di fare un accenno a Cuba, di cui nessuno parla, dopo che le prepotenze occidentali l'hanno privata di tutto, sta cadendo insomma in una disperazione totale. Tutto questo per dire che i giornalisti fanno il loro dovere. Tornando alla questione dei prigionieri, mi sento solo di dire che sono considerati in Palestina come il midollo osseo del movimento di liberazione. C'è una dichiarazione, un comunicato, un documento insomma della resistenza palestinese del 23 novembre del 2023, che a me sembra di una profondità incredibile, in cui si dice, che recita così: i nostri prigionieri non sono innocenti, non solo per ciò che hanno fatto, ma per ciò di cui sono capaci. E questo secondo me è una dichiarazione di una potenza notevolissima. In Palestina i prigionieri, come i martiri, non vengono mai dimenticati. In ogni strada, in ogni vicolo di tutte le città, da Ramallah, Hebron, Al-Khalil è la stessa cosa, Nablus, ovunque ci sono manifesti con i nomi, i volti dei prigionieri, non vengono mai dimenticati. Durante lo sciopero della fame, poi mi permetto di fare un'anticipazione di quello che forse dirai anche tu, durante lo sciopero della fame dei prigionieri, per esempio, vengono montate delle tende nei centri delle città in Cisgiordania, e per tutto lo sciopero della fame parenti, amici, solidali sono presenti in queste piazze per sostenere la lotta. Ora, come dice nel libro, siccome una delle pratiche di annientamento dei prigionieri, così come delle persone all'esterno delle prigioni, è quello del farli morire di fame, anche la lotta per, come sciopero della fame, è stata praticamente annullata, no? Ma poi penso che ne parlerà. Ultimamente, qualche giorno fa, è uscita la nuova relazione della Francesca Albanese, che è dedicata proprio esclusivamente, direi, ai prigionieri palestinesi, e praticamente ripercorre un po' l'impostazione, è la stessa del libro, cioè l'importante, perlomeno per quello che mi è dato di capire, poi tu al limite lo confermerai, non si perde di vista la relazione tra ciò che avviene all'interno delle carceri, che probabilmente dirà meglio lei, non stiamo a portare altro tema, però veramente sono abusi al di là del umanamente accettabile, cioè abusi di ogni genere e tipo, e però è praticamente la stessa cosa che avviene fuori. Se noi pensiamo per esempio all'attacco che viene fatto alla popolazione di Gaza con il spingendola sempre più, come avveniva qualche tempo fa, verso zone deputate sicure, oppure quando c'era, l'associazione che doveva distribuire il cibo. Ma adesso non mi ricordo come si chiama quella famigerata associazione che distribuiva il cibo, che in realtà poi era un'occasione per sparare a chi si avvicinava ai camion per prendere quel poco che gli veniva distribuito, oppure per essere arrestati. Gli arresti sono avvenuti in tutte le parti di Gaza e della Cisgiordania, e in questo momento soprattutto in Cisgiordania, come detto, sono i coloni che stanno facendo il bello e il cattivo tempo, e il brutto e il cattivo tempo. Tutti gli argomenti che sono stati affrontati sia dall'albanese che dalle varie associazioni per i palestinesi sono riprodotte nel testo, e quindi ne parlerà per meglio lei. Mi veniva soltanto da ricordare alcune similitudini con la situazione italiana, cioè per esempio chi viene portato nelle prigioni israeliane viene deprivato di tutti gli oggetti e non è possibile mantenere nella cella nulla, come succede praticamente nel regime di 41 bis in Italia. Oppure un'altra analogia sono le accuse che vengono fatte soprattutto alle donne di istigare sui social alla reazione, e la stessa cosa mi viene in mente è successa qui in Italia, per esempio con Ahmed Salem, che è rinchiuso a Rossano per avere sollecitato a reagire al genocidio. Un'altra questione è quella di partecipare per esempio ai processi soltanto in videoconferenza, e lo stesso avviene per i prigionieri palestinesi, quando poi in questo caso è già una gentile concessione farli partecipare a distanza, ma comunque viene leso il diritto alla difesa in un modo, diciamo, piuttosto inequivocabile, insomma abbastanza evidente. Comunque un'altra delle questioni che vengono affrontate sia nella relazione dell'albanese che dai comitati per i prigionieri palestinesi che dal libro della Prete è quello della disumanizzazione, cioè dell'attacco alla dignità, cioè oltre agli attacchi fisici, psicologici, veramente di una impossibile anche da sopportare umanamente, l'obiettivo è quello di attaccarli e di togliere qualsiasi dignità sia ai prigionieri che alle persone e chi è fuori, per poter effettivamente arrivare a quello che è l'obiettivo da sempre dichiarato, cioè di eliminare di eliminare totalmente la popolazione palestinese. Sì, sappiamo che l'imperativo sionista è quello di una terra senza popolo per un popolo senza terra. In realtà la terra il popolo ce l'aveva ed è ancora lì che resiste con tutta la forza che può mettere in campo. Io non voglio aggiungere altro perché abbiamo già abbiamo fatto già due introduzioni. Se poi magari mi viene in mente qualche cosa che secondo me era importante dire che non ho detto adesso, mi riservo di intervenire anche successivamente. A proposito dell'importanza dei prigionieri, ecco una cosa che forse volevo ricordare, che cioè l'obiettivo dell'attacco del 7 ottobre era proprio quello di prendere ostaggi per poter fare lo scambio con i prigionieri. In effetti questo è avvenuto, c'è chi parla di 2000 prigionieri liberati palestinesi, ma in realtà sono molti molti di più, sono stati liberati a novembre del 2023, poi nel 2025 in due tronconi, e questo per sottolineare ancora come sia nella quotidianità ma anche per la resistenza l'importanza e non c'è una separazione, ecco, tra la società, cioè tra i palestinesi e i loro prigionieri, perché vivono costantemente insieme, ecco, uniti, e il fatto che appunto anche l'obiettivo del 7 ottobre fosse proprio questo testimonia dell'importanza di questo collegamento tra il dentro e fuori, cosa che in altri paesi come in Italia si è persa da parecchio tempo. Grazie. Vai. Questo funziona o vuoi? Se posso toglierlo. Sì, sì. Sì, sì. Va bene. Grazie mille a tutti voi per essere qui stasera e per voler affrontare uno dei problemi dal mio punto di vista più gravi per l'umanità oggi, e sicuramente per voler andare un po' anche a guardare negli occhi, per così dire, questi prigionieri palestinesi che sicuramente in questo momento stanno passando uno dei momenti più duri di tutta la lunga storia di sofferenza della Palestina. Vorrei dire questo, che raccontare in questo momento qual è la condizione di vita in cui sono tenute queste persone vorrebbe dire attraversare una galleria degli orrori che, con tutta franchezza, non ritengo sia molto utile, almeno per me in questo momento, cercare di riportare. Sicuramente abbiamo raccolto molte testimonianze e sicuramente avrete modo di confrontarvici. Penso piuttosto che sia importante cercare di capire quali sono i dispositivi che consentono a quella galleria degli orrori di essere messa in piedi da Israele, e penso che dobbiamo anche utilizzare un po' gli strumenti che l'analisi istituzionale ci consente per guardare a quali sono diciamo tutte quelle implicazioni che ci riguardano anche nella nostra vita quotidiana, per capire com'è possibile essere, come dire, giunti a questo punto. Partirei perciò con l'idea di toccare alcuni punti che prevedono innanzitutto il vedere le tante sovradeterminazioni che ci sono a quella prigionia. È vero, come è stato detto fin qui, che i prigionieri palestinesi sono centrali nella esperienza di quella comunità, ed è sicuramente vero che nel corso degli anni ci sono state delle condizioni attraverso le quali i prigionieri stessi, utilizzando lo sciopero della fame, utilizzando una serie di strumenti che avevano a disposizione, sono sicuramente riusciti a ottenere delle condizioni di vita che rispettavano quantomeno una, diciamo, dei valori minimi per l'esistenza. Voglio però far presente che la sovradeterminazione di questo periodo, cioè il contesto genocidario in cui oggi i palestinesi sono imprigionati, cambia completamente la loro situazione, ma deve cambiare anche il nostro sguardo su quella prigionia. Perché dico questo? Perché in qualche modo, nel momento stesso in cui si è fatta la scelta di, io la chiamo in questo modo come l'hanno chiamata molti ricercatori in questi anni, nel momento in cui si è fatta la scelta di arrivare alla soluzione finale per i palestinesi, noi vediamo che sono state messe in atto esattamente tutti i passi che, per esempio, sono stati usati un secolo fa in Europa, quando a essere in procinto, diciamo, di finire come nel quadro di un razzismo che era quello nazista, si sono usati gli stessi identici passi che abbiamo visto svolgersi in questo periodo, che precede indubbiamente il 7 ottobre, ma che in qualche modo ha ottenuto un'accelerazione che è dovuta anche al contesto internazionale. Mi permetto di suggerire che certamente, così come il sionismo è indubbiamente un'ideologia colonialista nata in Europa, di cui quindi in qualche modo tutti noi portiamo una responsabilità, che ci piaccia un po' di più o un po' di meno, però vorrei anche aggiungere che siamo in un momento in cui, non da oggi, da una ventina d'anni direi almeno, siamo in un momento in cui non sono mai state concentrate nelle mani dei poteri istituiti delle armi tecnologicamente così avanzate da poter controllare e da poter individuare e seguire e controllare ogni singolo cittadino. Quindi pensiamo, questo in un territorio piccolo come quello palestinese, che cosa vuol dire? E poi da lontano e senza in nessun modo essere a rischio con la propria persona, con un click si possono uccidere delle persone. Questo è un tema su cui non voglio dilungarmi, perché ci porterebbe lontano rispetto al discorso dei prigionieri, ma che va considerato. Scusate, va considerato perché in qualche modo sovradetermina anche le implicazioni della solidarietà sia palestinese che fuori dalla Palestina nei confronti dei prigionieri. Tutte quelle dinamiche che sono state dal 67 al 2023 componenti fondamentali della società palestinese rispetto ai loro prigionieri, dovete tenere conto che in questo momento non sono più praticabili. Questo conduce a tre vie cieche per i prigionieri, che sono: uno, quella di essere fatti sparire. Esiste un problema di sparizioni forzate che è cominciato nell'ottobre del 2023, che non è finito e che non sappiamo che percorso debba ancora avere. L'altra è quella di finire in questi campi di tortura, che non sono più le prigioni che abbiamo conosciuto anche in Palestina, prigioni che avevano caratteristiche molto simili, se così vogliamo dire, fino a una decina di anni fa e sicuramente fino al 2022, a quelle che sono state le carceri speciali istituite in Italia per i prigionieri politici, i militanti delle organizzazioni armate di sinistra. Ora questo non è più vero nemmeno per loro, è diventato anche molto più facile morire, quindi, e questa è la terza via cieca che abbiamo davanti in questi luoghi, perché quale che sia la determinazione di un popolo, quale che sia la determinazione, la forza e la pulizia anche etica di un individuo e la sua volontà di resistere e di lottare, noi dobbiamo tenere conto che siamo degli esseri umani e che abbiamo delle fragilità, e che quindi non è vero che possiamo sopportare qualunque cosa. Prova ne sia che delle 333 persone morte di cui si conosce perlomeno il nome e di cui c'è una documentazione, morte nelle carceri israeliane dal 67 ad oggi, 100, ma io diffido dei numeri, quindi, perché li considero sempre sottostimati in queste circostanze, quindi non dateci troppo peso, ma almeno 100 sono morte negli ultimi 2 anni. Questo vuol dire che sono persone che muoiono di fame, che muoiono di botte, che muoiono di malattie non curate e via dicendo. Quindi abbiamo 3 vie cieche che prima non avevamo come risposta alle lotte contro l'occupazione da parte di Israele. Abbiamo poi un altro punto che vorrei portare alla vostra attenzione. L'istituzione della tortura in Israele, come da noi, voi sapete, è diventata un'istituzione ormai ordinaria sia nelle nostre patrie considerate molto democratiche e civili, sia anche questa storicamente, diciamo, una pratica consolidata anche in Israele. Tuttavia anche questo aspetto, anche questa istituzione è stata in qualche modo sovradeterminata da questo diciamo momento genocidario, per cui questa stessa pratica è diventata continuativa, massificata, e per usare la parola continuativa e massificata voglio dire che non c'è più, non so, molti di voi avranno visto le immagini di, mettiamo, Santa Maria Capua Vetere, faccio questo esempio perché è qualcosa che magari così ci ricorda qualcosa di visivo. Ecco, immaginiamoci quelle immagini che perdurano per dei giorni, per dei mesi, per degli anni. Allora capiamo anche perché poi forse delle persone muoiono, forse non è neanche più pensabile che queste persone possano, dal punto di vista proprio fisico e umano, tollerarlo a lungo. Questa spettacolarizzazione, uso questa parola perché è secondo me molto importante vedere la differenza che c'è tra quella che è stata la tortura praticata sui ragazzi delle pietre, facciamo riferimento anche ai ragazzi della prima intifada, no? Che come ci ha raccontato Brian Barber in Resistere a Gaza, cioè finiscono con l'essere torturati ogni volta che vengono arrestati. E ecco, anche questo avveniva, se vogliamo, dentro ai centri di detenzione e rimaneva lì. In qualche modo oggi, e faccio ancora una volta l'esempio del Terzo Reich, dico, se pensiamo che addirittura durante la soluzione finale per gli ebrei in Germania, il Terzo Reich allestiva delle scenografie, molti testimoni sopravvissuti, soprattutto bambini sopravvissuti a quella vicenda, raccontano che però perlomeno un giorno all'anno loro mangiavano perché veniva ripulita una sala del campo di concentramento, venivano portate le persone, veniva dato loro da mangiare. Perché? Perché si invitava la Croce Rossa e si voleva testimoniare, documentare che in quel luogo i prigionieri erano trattati umanamente. Cosa vediamo invece noi in Palestina? Abbiamo visto che dopo il 7 ottobre sono state arrestate decine di migliaia di persone, e torneremo magari su questo punto, e sono state vietate, è stato detto alla Croce Rossa che non avrebbero, che Israele non avrebbe più comunicato neanche i nomi o i luoghi in cui queste persone venivano portate. Ed è però successa un'altra cosa, che dentro alle prigioni, nello stesso momento in cui veniva tolta ai prigionieri qualunque possibilità di sapere che cosa succedeva fuori, arrivavano in queste prigioni delle troupe televisive con dei giornalisti israeliani, dei cittadini israeliani, che si facevano un giro di queste celle. E dentro a queste celle ai prigionieri veniva chiesto di inginocchiarsi, di rimanere con la testa china, in posizioni, dicono alcuni di loro, non solo molto difficili da tenere, ma anche estremamente umilianti. Veniva raccontato davanti a loro, perché erano visite che duravano anche 40 minuti, loro dovevano stare fermi e non guardare mai, non alzare mai la testa. Ricordatevi questa parola, di non alzare mai la testa. Ebbene, e venivano raccontati a questi visitatori, a questi giornalisti, i trattamenti che venivano inflitti a questi prigionieri, e veniva permesso anche a questi visitatori di schernire, di prendere in giro i prigionieri. Queste, diciamo, videodocumentazioni della tortura venivano poi mandate in onda sui canali israeliani, dice Bezalemin, in canali in ebraico, per, come dire, rassicurare i cittadini israeliani della ferocia con cui i palestinesi venivano trattati. Questa spettacolarizzazione, quindi, che abbiamo in gran parte visto anche durante i 2 anni e mezzo di massacri a Gaza, è una spettacolarizzazione precisa e specifica della tortura dentro alle carceri, che ha uno scopo, ha lo scopo di produrre, introdurre e comunicare, diciamo, anche alla popolazione palestinese un seme di terrore, un seme di terrore che vuol dire voi non dovete più avere il coraggio di rialzare la testa, voi ci avete sfidati, avete sfidato il mito della nostra invulnerabilità, e quindi siete puniti e lo sarete se oserete. Da questo punto di vista arrivo anche all'altro punto, all'altro dispositivo che vorrei, che avevo comunque in mente di sottoporvi, che è l'idea dell'uso sproporzionato della forza. L'uso sproporzionato della forza è una strategia che Israele sta utilizzando, nasce da un precedente diciamo trattamento dei libanesi nel, un po' prima del 2006, e parte dall'idea che tu devi spaventare così tanto proprio perché non c'è una proporzione tra quello che ti è stato fatto e quello che tu fai al tuo nemico, devi spaventare così tanto il tuo nemico che quello non oserà mai più pensare di attaccarti. Questa medesima sproporzione, vorrei sottolineare, noi la vediamo nel nostro paese non tanto riguardo all'uso della forza, ma riguardo all'uso della repressione. Se voi considerate i decreti sicurezza, tutto quello che noi abbiamo visto in questi anni, vediamo come non c'è una proporzione tra i problemi di questa società e quelli che sono i provvedimenti. Questa è una sproporzione della repressione che viene utilizzata con lo stesso identico significato della spropositata forza usata da Israele, che indica come gli stati in questo momento della storia stiano preferendo usare questa, tra virgolette, arma antica del terrore piuttosto che un confronto con i loro cittadini. Vorrei ancora aggiungere solo due cose, poi casomai mi interrompo e casomai parleremo se avrete delle domande da fare. Le due cose che voglio ancora, su cui voglio portare la vostra attenzione sono queste. Cioè, perché tutto questo possa accadere, cioè perché noi possiamo assistere in diretta a un genocidio, perché noi possiamo assistere anche a tutto quello che abbiamo visto in questi 2 anni e mezzo, in assoluta tranquillità, non intendo ciascuno di noi, perché ciascuno di noi nella sua coscienza indubbiamente, però se guardiamo il piano, diciamo, istituzionale e sovranazionale, direi che in tutta tranquillità è stato permesso tutto questo. Allora, perché questo sia possibile, noi dobbiamo ricorrere a uno strumento dell'analisi istituzionale che ci fa vedere come sia la nominazione delle cose, quando i poteri istituiti nominano qualcuno, nominano un nemico, come questa nominazione diventi decisiva per compiere i peggiori crimini. Ma per capire cosa intendo per nominazione mi rifaccio brevemente a due considerazioni. Noi partiamo da tempo dal presupposto che esistano delle parole valigia, parole che sono molto elastiche, molto ampie, che non rimandano a qualche cosa di preciso, non rimandano un albero, rimanda un albero. Delle parole valigia invece rimandano a qualcosa che non è definito storicamente, non è neanche, come dire, condiviso né a livello nazionale che internazionale. Utilizziamo quindi delle parole perché mettendo lì dentro delle persone, perché una volta che una persona viene nominata sparisce come persona, e utilizziamo quella parola valigia per giustificare qualunque atto noi compiamo contro quella persona, perché quella persona sparirà dentro alla parola valigia che la assorbe. Se guardiamo il lavoro che ha fatto questo collettivo che si chiama Media Bias Meter, cioè la misurazione dei pregiudizi nei media, che hanno studiato 54.000 articoli, o forse 154.000, scusate, con i numeri non sono sicura, che sono stati scritti, articoli che sono stati scritti sulla situazione palestinese dall'ottobre del 2023 fino all'agosto del 2025. 8 grandi giornali sono stati presi di 8 paesi amici di Israele, c'è anche il Corriere della Sera per l'Italia, e hanno verificato come siano state utilizzate, intanto sia stata utilizzata la parola valigia più potente di tutte, che è terrorismo. Allora, i palestinesi sono terroristi, lo sono tutti, e la Hamas è un'organizzazione terrorista, e quindi questo è stato il modo in cui è stata coperta, diciamo, l'informazione sul conflitto. Allo stesso modo sono state, lì c'è anche tutto il discorso di quante volte viene usata la parola Israele e quante la parola Palestina, e si scopre che la parola Palestina è di fatto vorrei dire inesistente, ma inesistente perché d'altra parte noi stessi l'abbiamo fatta sparire dal momento in cui abbiamo, come dire, accolto la tesi che fosse in corso una guerra tra Israele e Hamas. Francamente io ho dei dubbi anche proprio sulla parola guerra, anche qui non vorrei dilungarmi su questo punto, perché è un lavoro che viene da diversi anni fa e che riguarda comunque questo nuovo tipo di guerre, che noi continuiamo a chiamare così perché non abbiamo trovato un altro nome, ma che si rifanno a paradigmi che con la guerra, intesa come istituzione storica, non hanno nulla ovviamente a che fare. E questo credo oggi più che 8 anni fa, sia un po' sotto gli occhi di tutti, quindi sia anche più facile spiegarlo e farlo capire. Questa nominazione quindi deve preoccuparci molto, dobbiamo rifiutare le parole valigia che vengono usate, perché quando i poteri nominano delle figure, lo dobbiamo guardare anche nel nostro paese, perché nel nostro paese sono state usate parole pesantissime per giustificare dei passaggi anche repressivi assolutamente spaventosi, ma noi li abbiamo un po' lasciati correre perché casomai temevamo di essere assimilati a dei terroristi, a dei mafiosi, a dei matti, a dei camorristi, a degli zingari, a dei clandestini, a degli extracomunitari, che sono un po' tutte le parole che abbiamo sentito usare, che hanno permesso decisamente dei dispositivi istituzionali che di democratico hanno ben poco. Ora vi lascio due domande, anzi due o tre. Ve le voglio lasciare queste domande perché sono quelle che mi inquietano di più e che penso richiederebbero, almeno nella mia intenzione, una discussione collettiva. Una discussione che non lasci a dei singoli, l'angoscia di queste domande. La prima riguarda perché mai uno Stato come quello di Israele, che indubbiamente ha un primato negli omicidi, non è l'unico, perché anche noi come italiani abbiamo dato le basi di Sigonella per commettere crimini infiniti, abbiamo fatto stragi di uomini, donne e bambini con i droni che partivano da Sigonella, ma siccome andavano poi a colpire delle persone che non erano bianche o che erano state appunto etichettate variamente come terroriste, le abbiamo un po' lasciate passare. Ora mi chiedo come mai Israele, che comunque in questo campo sicuramente detiene un primato, anche solo per quello che ha fatto in questi ultimi 2 anni sotto gli occhi di tutti, che bisogno abbia quindi uno Stato come questo di approvare nel proprio Parlamento la pena di morte per i palestinesi che siano colpevoli di aver colpito degli obiettivi israeliani, e peraltro coerentemente con tutto il sistema di apartheid che ha istituito soltanto per i palestinesi, denominati ovviamente terroristi, ma questo va, non c'è neanche bisogno di dirlo, come mai abbia questo bisogno, se non perché questo riguarda in qualche misura tutti quei prigionieri storici, che non sono quelle decine di migliaia di palestinesi, di Gazawi, che sono stati presi in ostaggio subito dopo il 7 ottobre. Queste decine di persone, decine di migliaia di persone di cui appunto conosciamo il destino di pochissimi. Si dice che sì, se ne siano stati restituiti molti, però i palestinesi ci dicono anche che di moltissimi di loro non si ha notizia. Vi voglio solo raccontare brevemente la storia di questi due, un padre e un figlio, Amunir e Yassin al-Fakkani, che si sono visti prelevare da Khan Yunis e hanno detto, l'IDF ha detto alle famiglie: non chiedeteci neanche dove li portiamo. Poi hanno cercato in tutti i modi di scoprire dove erano. L'esercito israeliano ha negato per lungo tempo di averli mai neanche arrestati, finché dopo diverse petizioni e diverse documentazioni portate hanno detto: ah sì, è vero, probabilmente li avevamo anche arrestati, ma comunque sono morti, e quindi sono finiti in quei congelatori, no, dove Israele trattiene i corpi dei morti, dei palestinesi morti, in vista di, loro dicono, ulteriori scambi. Oggi non saprei con chi debbano però scambiarli. Infatti ne hanno restituiti 300-400 su dei camion di recente congelati. È impossibile, comunque vengono restituiti proprio così, buttati sopra dei camion, così come vengono prelevati vivi, no? A Gaza, quando ci sono state queste retate di palestinesi, è arrivato l'esercito e li ha denudati, li ha fatti camminare, sfilare in mezzo al villaggio, al quartiere, li ha fatti sfilare nudi, li ha bendati, li ha buttati sopra dei camion dove erano già accatastati degli altri palestinesi altrettanto nudi e bendati. Come ritornano i corpi dei morti? Ritornano accatastati, senza nessun tipo di riconoscimento possibile. Allora, la domanda che io faccio su questa questione della pena di morte, vorrei la tenessimo assolutamente presente, perché potrebbe anche costituire un elemento portare come uno dei problemi che vogliamo affrontare nella nostra solidarietà con la Palestina. L'altra domanda che vi voglio lasciare è questa: come mai uno Stato come quello italiano, che si è macchiato nel corso del, almeno nel secondo dopoguerra, di diverse stragi, ne ha fatte nelle stazioni, ne ha fatti nei treni, ha fatto nelle piazze contro i movimenti, uno Stato che non ha avuto nessuna preoccupazione a infiltrare, anche se più o meno maldestramente, i servizi segreti dentro alle formazioni o ai gruppi sociali che riteneva pericolosi. Come mai uno Stato che ha una storia, diciamo così, ha sentito il bisogno l'anno scorso scrivere un articolo di legge, che è l'articolo 31 del decreto legge, mi pare 48, quello promulgato da Mattarella un anno fa circa, dove si scrive nero su bianco che in questo paese il nostro Presidente del Consiglio o un'autorità che voglia delegare può autorizzare i servizi segreti del nostro paese a dirigere e organizzare delle associazioni sovversive con finalità di terrorismo anche internazionale. Vi lascio questa domanda come una riflessione che ritengo a livello proprio di società dovremmo fare. Mi auguro naturalmente che questo terrore che evidentemente si vuole incutere e che non solo, ma abbiamo visto anche nella sproporzione appunto repressiva, gli arresti dei palestinesi per conto di Israele, diciamo, in Italia, quella lunga mano che il ministro della difesa Katz aveva minacciato, no? Chiunque sia nostro nemico, ovunque sia, noi lo individuiamo, e questo è sicuramente vero, perché basta avere un cellulare in tasca perché ci individuino, e lo individuiamo, lo cerchiamo e lo colpiamo. Vi ringrazio. Sera, volevo dire, sperando di essere breve e rubarvi 10 minuti, innanzitutto vi ringrazio dell'iniziativa, visto che è anche la prima volta che Marita viene qua, diciamo, altre volte è anche venuto Renato, diciamo. E volevo fare un breve excursus sensibile alle foglie, diciamo, e fuori, diciamo, nel... da circa 34 anni, diciamo, e la composizione è nata all'interno di Rebibbia, tra Renato Curcio, Stefano Petrella e Nicola Valentino. Petrelli, infatti, come un sommario l'ho scritto Petrelli, ho detto Petrella, è vero, quello è un altro Petrelli, e successivamente poi fuori si sono legati altri compagni militanti, diciamo. Il progetto, diciamo, della casa editrice si fondava, diciamo, partendo dalla socioanalisi narrativa, che tra l'altro facciamo anche dei corsi qua a Milano, ai veri e propri libri, diciamo, dal cantiere all'analisi sociale del vissuto, cioè dalle carceri ai manicomi, ai dispositivi, diciamo, anche totalitari della scuola e del lavoro, diciamo. Questa iniziativa prende la chiave, diciamo, sia il progetto Memoria, che parte dagli eventi che ha scritto Marita, diciamo, che si dividono su 5-6 libri precisamente, agli indicibili sociali, che gli indicibili sociali, tra l'altro, appunto, è la collana sempre che cura Marita per quanto concerne anche l'ultimo libro, diciamo, che stiamo presentando, Prigionieri palestinesi, diciamo. È in totale più o meno, diciamo, a 620-630 libri nell'insieme di questi 34 anni, sensibile alle foglie, ha avuto a 630 autori, diciamo. In riferimento alla Palestina, teniamo presente, e magari ad alcuni di noi c'è da tirarle anche un po' le orecchie, perché effettivamente ci sono tanti, sia l'associazione API, Associazione Palestinese Italiana, e sia altri collettivi individuali, tra cui appunto in prima persona, diciamo, il centro sociale Vittoria, che da 2 anni e mezzo porta avanti l'iniziativa tutti i sabati, cosa non poca, perché tra l'altro anche il 14 di agosto è stata fatta, eravamo magari 30, 40, 50 persone, ma però era sempre una presenza non indifferente, diciamo. E tra l'altro ultimamente, come tanti sapete, sono stati arrestati 6 palestinesi dell'API, tra cui Mohamed Announ, Daoud Falestine, mi sembra, cioè la figlia si chiama Falestine, adesso non mi ricordo come, ah no, lui si chiama Raed Davoud, Yasser Alessani e Riyad Al-Bustani. Questi sono gli ultimi 4, gli altri 2 invece sono stati liberati nel corso dell'inchiesta. Tenevo presente appunto anche il riferimento che si parlava prima delle carceri a una simmetria, esempio con quello che era una volta il vecchio articolo 90, diciamo. Oggi abbiamo il 41 bis, in cui questi compagni sono al 41 bis, di fatto non è che proprio fanno una passeggiata all'interno di un penitenziario qualsiasi, e sono tutti divisi, tra cui c'è Rossano Calabro, il più lontano, che è il compagno Annun, che lui vive da Genova, diciamo. Ferrara, Monza e Terni. Praticamente, a parte Rossano Calabro, il resto l'abbiamo girato tutto, diciamo, da sabato alla domenica andavamo in questi penitenziari, ed è stata una bella, tutto sommato, cioè una gran bellissima iniziativa. Anche siamo andati a Terni, partire da Milano per andare a Terni ci è voluta un'intera giornata solo di viaggio, proprio alzarsi alle 4 del mattino per ritornare a casa alle 2 e mezza di notte. Questo è proprio grazie proprio all'impegno che comunque individualmente un po' tutti si sentivano di fare, perché per noi comunque la Palestina ce l'abbiamo nel cuore, diciamo, anche queste relazioni che comunque di volta in volta abbiamo intessuto con questi militanti palestinesi, era proprio come se fossero dei nostri fratelli, anche con delle difficoltà di lingua o delle difficoltà anche a pronunciare il suo nome, ad esempio, perché non sono nomi altamente facili. Se teniamo presente anche la sproporzione di anni che potrebbero beccarsi questi compagni, cosa che non è da poco, andiamo comunque dai 5 anni ai 15 anni, cioè proporzionalmente, ammesso e non concesso che abbiano finanziato delle persone che in Palestina stanno morendo di fame, non mi sembra una grossa cosa. Non è che andavano a finanziare chissà che partito o organizzazione da parte dell'Occidente clandestina, andavano a finanziare delle semplici famiglie che veramente gli manca tutto. E spesse volte, quando loro dicono tutto, vuol dire letteralmente tutto, cioè dal vestirsi alla carta igienica, ai libri per quei pochi bambini che comunque vanno a scuola. Mi sembra che inizialmente l'altra compagna precedentemente aveva parlato su alcune iniziative, e se si facevano della Palestina, sembra di aver capito tu mentre parlavi prima dell'introduzione. Ti volevo raccontare una cosa che avevano fatto 6-7 mesi fa, un centro culturale lì a Niguarda, molto bello, in cui c'è stata in diretta, diciamo, con degli interlocutori da Gaza, diciamo, in videoconferenze, sai, anch'io poi di tecnologie che ci capisco meno dello zero. E però è stata una bella iniziativa, ed erano dei cittadini, diciamo, del quartiere in fondo, precisamente era in fondo a Via Ornato. E questa iniziativa si era divisa: da una parte c'era questa interlocuzione con questi militanti palestinesi, e dall'altra parte c'era appunto un salone grande due volte questa sala, diciamo, più o meno, per dare un'idea, in cui c'erano tutte le fotografie dei bambini palestinesi, fotografie molto belle, molto interessanti, che erano, sì, perdonami? Perdonami, hai ragione. Disegni, non fotografie, che volevo dire che sono uguali più o meno, che abbiamo lì un libro dal titolo Bambini da Gaza, disegni. E questa cosa è stata comunque, sia col quartiere che con la cittadinanza, un ottimo rapporto, diciamo, di relazione. Ecco, volevo soffermarmi leggermente appunto a merito a questi quattro prigionieri palestinesi, e ancora detenuti, purtroppo, che c'era stata l'altra volta al Vittorio, nella presentazione precedente con Marita, e la figlia di Dawood, si chiama Palestine, e lei nel raccontare la relazione con suo papà a distanza, perché non può assolutamente andare al carcere, a diversità di quello che era una volta per noi l'articolo 90, che almeno ha lottato per tirar giù i vetri, un esempio, ma avevi una relazione perlomeno anche a distanza, anche col vetro, avevi un rapporto vagamente, vedevi come era fatta tua moglie o tuo figlio. Questi assolutamente non possono avere nessuna relazione, se non quella ogni 15 giorni di parlare telefonicamente attraverso questi motori di Skype o altre diavolerie, ma non puoi interloquire, non puoi vedere tuo papà o i tuoi genitori. E questa cosa qui aveva una registrazione, sta ragazza, Palestine, e dice: vi voglio dare una novità, e c'era suo papà che parlava, che salutava platealmente, diciamo, i presenti, e ha fatto emozionare tantissime persone lì presenti, anzi, e lui si caldeggiava l'idea, proponendo che eventualmente sarebbe una bella cosa tutti insieme rivederci eventualmente il 25 aprile, anche con queste parole d'ordini per la liberazione della Palestina. Grazie di tutto e buona serata anche a voi. Dove cazzo? Va bene. E domani, ecco, mi raccomando, se magari qualcuno vuol venire, siamo alle 3 da Cadorna fino a Cairoli. Domande, considerazioni? Scusate l'interno. Poi dopo. Comunque, sono andato casualmente invitato da un carissimo amico, Ugo Giannangeli, un avvocato che forse qualcuno conosce, che si occupa da tanti anni proprio della Palestina, i palestinesi, eccetera. Ha fatto una spiegazione di quella che è la proposta di legge, mi sembra, se non ricordo male, il numero 1004, dietro la quale ci sono non pochi esponenti anche del PD, come Del Rio, come tanti altri, che è anche oggetto di contrasti notevoli all'interno del PD, all'interno, cioè appoggiato dal centrodestra ovviamente, che sostanzialmente va a equiparare l'antisemitismo all'antisionismo e alle critiche a Israele. È una cosa, io non conoscevo, ma è una cosa spaventosa. Siamo a livelli di nazismo sostanzialmente introdotto in Italia. Allora, le manifestazioni che facciamo per quel poco che servono e via dicendo dovrebbero anche attaccare tutte quelle forze, attaccare pacificamente si intende, legalmente si intende, no, tutte quelle forze politiche a partire dalla sinistra che in una qualche maniera, a partire dalla sinistra perché è scontato da attaccare politicamente la destra, no? Sono tutti capaci di farlo, quelli che hanno una certa sensibilità. Beh, attaccare tutte quelle forze di sinistra che non si oppongono, no, decisamente e molto chiaramente contro questo tipo di proposte di legge che equipara l'antisemitismo e l'antisionismo. In quella occasione ho avuto modo di conoscere, di sapere, non tanto da Monio Vadia, che forse voi tutti conoscete, ma di sapere che esistono delle organizzazioni più o meno studentesche, più o meno giovanili e via dicendo, di ebrei che sono antisionisti, che sono dichiaratamente, esplicitamente filo-palestinesi, che si battono per la Palestina, per i palestinesi. Queste cose qui secondo me sono importanti, sia il riconoscimento e i contatti con queste organizzazioni più o meno ebraiche che sono filo-palestinesi, per combattere l'idea che l'antisemitismo equivalga all'antisionismo. È una balla sostenuta e in qualche modo incoraggiata da tanti anni, no, da tanti anni, e questa è la propaganda israeliana in Italia, sostenuta da Israele da tanti anni, no, che vuole equiparare proprio questo: antisemitismo uguale antisionismo e critica a Israele. Questa legge cerca di dimostrare che qualunque critica a Israele è equiparabile all'antisemitismo. È una cosa pazzesca, è una cosa talmente intollerabile anche dal punto di vista molto semplicemente democraticistico che non se ne parla, non ne dice niente nessuno, ma è mai possibile? Anche stasera, scusate, non è una critica a voi, ma voglio dire, anche stasera questa cosa qua non è venuta fuori e mi sembra strano. No, io, a dirti la verità, nel mio libro dedico anche 2 o 3 pagine a questo discorso. Ho però un'opinione diversa da questo punto di vista, cioè io penso che la questione di voler a tutti i costi utilizzare questa definizione, farla coincidere con le critiche a Israele, perché se ci pensi, cioè, ci sono 4 proposte di legge oggi in Parlamento in Italia riguardo a questa cosa. In Italia è già stato accolto il criterio, la definizione, ma non solo in Italia, anche in Europa, è stata accolta già tanti anni fa questa definizione data da questa associazione per il ricordo dell'Olocausto, che HIRA, che è quella sostiene il sionismo da sempre. Ora io condivido questa idea che sia come dire una maniera per incoraggiare in un certo senso una associazione tra Israele e gli ebrei di tutto il mondo. Devo dirti anche che io su questo però penso un'altra cosa. Se tu ti leggi Vittime perfette, che è un lavoro fatto da un palestinese in esilio che si chiama Mohammed al-Kurd, lui dice una cosa importante, dice: tutti noi palestinesi abbiamo lavorato per tanti anni in maniera esemplare per dire che noi non avevamo un problema con gli ebrei, ma ce l'avevamo coi sionisti. Siamo stati bravissimi, sono 80 anni che diciamo che il nostro problema sono i sionisti. Però come facciamo a continuare sempre a dire e a fare senza sentirci anche un po', come dire, non vuoi guardare quel che succede, dal momento in cui sono proprio quelli che vengono a svegliarci di notte, ci vengono con la stella di David, quelli che vengono a portarci in carcere, ci torturano, ci fanno baciare la bandiera israeliana rivendicando che sia ebraica, ci obbligano loro a pensare che loro, cioè Israele, siano ebrei. Quindi il problema, dice lui, di domandarci se il problema dell'antisemitismo ci riguarda o no, magari lasciamolo un po' anche in mano agli ebrei, che siano gli ebrei a dire se corrisponde a loro questa cosa o no. Certamente io non ho il timore di essere identificata né come antisemita né come terrorista, cioè non mi interessa proprio. Io non ho mai pensato in tutta la mia vita, credo come me, nessuno di quelli che sono cresciuti negli anni nostri ha mai pensato di poter odiare qualcuno, né per la religione né per quella che non riteniamo nemmeno esista, la razza. Cioè, quindi mi pare del tutto bizzarro che io mi debba preoccupare di questo. Cioè, sono stata una terrorista, potrò essere anche un antisemita, non è questo il mio problema. Io non ho un problema con gli ebrei, ho però un problema con Israele e quello che sta facendo ai palestinesi. Penso che sia sempre sbagliato cercare di, come dire, parlare a nome d'altri. Cioè, è sicuro che Israele in questo momento si è definita, nel 2018 si è definita Stato ebraico, starà bene agli ebrei di questo mondo dire che a loro non corrisponde né il genocidio, né l'apartheid, né l'ingiustizia grave e continuativa dell'occupazione che dura da 80 anni, starà a loro. Cioè, francamente, come dice Mohammed Al-Quds, saranno un po' dei problemi di chi viene chiamato in causa. Io non mi sento chiamata in causa in questo senso. Allora, capisco il tuo punto di vista. Un mio carissimo amico, nonché compagno, negli ultimi anni, Piero Bassi, qualcuno forse lo conosce, no, negli ultimi anni della sua vita, in diverse chiacchierate che facevamo, mi diceva: guarda, io ne ho pieni coglioni di un sacco di cose, cioè qui non si, abbiamo perso su tutta la linea. Non c'è la minima possibilità di rimettere insieme un punto di vista di classe, un punto di vista antirazzista, qui là su e giù. A me cominciano a starmi sui coglioni, scusate se uso questi termini molto crudi, no, cominciano a starmi sui coglioni sia i proletari, sia gli ebrei, sia tutti quanti. Lo diceva in un momento di sfogo, ovviamente. Piero Bassi è stato un grandissimo compagno delle Brigate Rosse, morto qualche anno fa, una persona alla quale voglio e volevo tanto bene da tutti i punti di vista. Abbiamo passato insieme nelle carceri speciali parecchi anni, quindi era un punto di vista buttato lì per dire che in realtà, secondo me, ci interessa che gran parte o quella parte sommersa di ebrei che si ritengono ebrei e non persone, ma ebrei in quanto, o cristiani perché cristiani, o musulmani perché musulmani, una persona è una persona, no. Se ha un punto di vista religioso, se non ha un punto di vista religioso, sono cazzi suoi, voglio dire. Ma nel momento in cui si identificano in una religione, no, a quel punto io non butterei via la religiosità di chi comunque difende un punto di vista, o comunque una popolazione come quella palestinese che viene sterminata. E con l'appoggio di tutte le cosiddette democrazie occidentali, l'Italia in prima fila. Allora, quello che è importante cercare di valorizzare quelle dal mio punto di vista, da quello che ho sentito l'altra sera, magari cambi idea se qualcuno mi convince, ma da quello che ho sentito l'altra sera a questa cosa di Chiama Milano, ti dico: porca miseria. Allora, ci sono delle realtà di ebrei, no, che sono di razza ebraica, ma magari sono laici, che si mettono insieme per difendere la Palestina, per contrastare il sionismo. Questa roba qua è, secondo me, importante, soprattutto per contrastare l'idea che l'antisionismo sia equiparato all'antisemitismo. Io ricordo due cose, e poi smetto di rompervi i coglioni. Allora, due cose fondamentali. Tanti anni fa mi era capitato, proprio perché la seguo un pochino con passione questa roba qui, di leggere su Corriere della Sera una paginata intera di un rabbino italiano di Roma, del capo rabbino, eccetera, una paginata intera che cercava di dimostrare, no, che il sionismo era equivalente all'antisemitismo. Poco tempo dopo, Napolitano, che era presidente della Repubblica, no, aveva fatto degli interventi ferocissimi sostenendo la stessa cosa. La sinistra italiana, da una vita a questa parte, no, sostiene Israele da questo punto di vista, in questa prospettiva. E la gran parte di quei deputati, come Del Rio, ma come diversi altri, che stanno lavorando in questo senso, cercano di sminuire il genocidio israeliano, di sminuire, di sostenere quello che Israele sta facendo. Cioè, mi sembra di ricordare un po' le cose lette su Goebbels. Allora, la propaganda israeliana in Italia sta lavorando alla brutta maniera per distruggere l'idea del genocidio che stanno facendo. Scusate. Vai. Sono ancora le 10:30, ce la possiamo fare con 10 minuti ancora di attenzione. Io intervengo, so che siamo pochi, magari può dare anche fastidio restare qui ancora qualche minuto. Intervengo prima per ringraziare quel che è, insomma, la scrittrice che ha fatto degli interventi accademici e di lotta e di partecipazione interessanti, e ho capito qualche altra cosa in più. Un po' per ringraziare anche il compagno qui, il centro sociale, che fa sempre iniziative del genere e ci riporta, a me mi riporta un po' indietro nel tempo, quando negli anni 70 a Milano tutte le sere c'erano iniziative del genere e si dibatteva e si discuteva. Allora, la questione palestinese perché è importante? E poi io nel mio breve intervento che faccio voglio precisare soprattutto che utilizzo dobbiamo fare della questione palestinese. Perciò per andare per ordine delle mie idee, falla non molto lunga, è evidente che la lotta del popolo palestinese, forse se l'umanità sopravviverà, resterà scritta negli annali della storia umana. Non c'è stato un popolo più resistente che ha mantenuto questa resistenza, soprattutto le donne che hanno partorito continuamente, anche se i loro figli venivano uccisi. Questo è il primo aspetto. Perché dobbiamo ragionare sull'utilizzo che dobbiamo fare di questa lotta? Io faccio delle domande molto semplici. Possiamo cambiare lo stato delle cose in Palestina? Possiamo fermare l'esercito israeliano? Possiamo fermare l'imperialismo americano? Queste sono delle domande molto chiare. Io penso che è impossibile. A tal proposito, nella sconfitta del proletariato, come diceva il compagno prima, che, insomma, dobbiamo analizzare un fatto molto semplice. Io condivido, l'ho letto anche sul tuo libro, l'ho detto anch'io tante volte, che praticamente a un certo punto Israele ha decretato la soluzione finale dei palestinesi. Netanyahu, e io non credo nella storia che Netanyahu fa la guerra per non farsi processare, sono minchiate evidentemente, ma Netanyahu tra i suoi processi ci dovrebbe essere anche un processo che analizza perché il Mossad, che conosce tutto di tutto il mondo, il 7 ottobre non sapeva niente. Perché? È un po' fantapolitica, ma si dice magari è stata la causa sbelli per sterminare completamente i palestinesi. Io vi devo dire questo, il parallelo che faceva la compagna, io l'ho fatto tante volte, la soluzione finale per gli ebrei e la soluzione finale per i palestinesi. Bene, il 29 e il 30 di settembre del 1942, nelle fosse di Baby Yar, vicino a Kiev, sono stati massacrati 30.000 ebrei in due giorni, uccisi dalle SS, dalla Wehrmacht, aiutati dagli ucraini. Perché dico questo? Perché adesso, se mi seguite, vi dico perché l'ho enunciato. Praticamente che è successo? Il governo tedesco, il Terzo Reich, il nazismo, ha analizzato l'effetto che ha fatto sui soldati. Tanti soldati tedeschi, ammazzare tutta questa gente, sono andati in crisi. Ecco, da lì è nato il discorso dei campi di sterminio. Ma perché dici questo? Perché dico questo? Perché in effetti il popolo palestinese, nonostante le nostre manifestazioni sembra che non facciano niente, sono stati attenzionati da tutto il mondo, e c'è da dire questo: gli israeliani non possono aprire i campi di sterminio in Palestina, li uccidono un po' alla volta, questo sì, però l'attenzione che il popolo del mondo, la classe operaia, piccola borghesia pure tra l'altro, ha attenzionato alla questione palestinese, ha messo praticamente, cioè ha impedito che questa soluzione finale fosse fatta come loro nei campi di sterminio, perché sapete che quando partivano i treni che andavano dalla Polonia, dalla Cecoslovacchia, dalla Francia e andavano ad Auschwitz, nessuno diceva niente, anzi questo non è successo, perché in effetti forse è illusorio dire ma abbiamo vinto il referendum, almeno ogni tanto qualcosa di... Io non voto, sono extraparlamentare, però i referendum contro i governi li voto. Perciò questo è un aspetto che sembra che magari dice non possiamo fare più niente, nello stesso tempo valorizza il fatto che la classe operaia, il popolo, si oppone a una determinata situazione. Ora, io ho ascoltato la relazione e tutto, però in effetti possiamo dire che un elemento in più andava messo, nel senso che la lotta contro Hamas da parte di Israele è evidente una lotta contro l'Iran. Oggi non ci sono più ombre, praticamente c'è la guerra contro l'Iran, viene bombardato con grande meraviglia. Io non me l'aspettavo che l'Iran, caspita, riesce a mantenere in testa, per quanto possiamo dire in questo modo, a un esercito come quello israeliano e quello come quello americano, che insomma lascia un po' sperare, nel senso che, attenzione, io non sono per gli ayatollah, sarei per ucciderli tutti, sono con donna, vita, libertà, ci mancherebbe altro, però purtroppo quando succedono queste cose analizzi la questione dal punto di vista politico. Bene, è evidente che non possiamo guardare la questione palestinese tra israeliani e palestinesi, dobbiamo guardare la questione palestinese tra blocco occidentale, America, Giappone, forse Stati Uniti, Israele, e contro l'altro blocco che è quello russo-cinese. Perciò questa è la lettura che dobbiamo fare. Di fronte a questo scontro, in cui ormai sono delineati i due elementi essenziali del prossimo scontro interimperialista o magari terza guerra mondiale, speriamo di no, o quello che sarà, la questione palestinese si inserisce in questo contesto. Qualche tempo fa avevo fatto un intervento, avevo detto che praticamente la questione palestinese collegava come un filo rosso la seconda guerra mondiale con la terza. Speriamo di sbagliarmi, ma mi sa che andiamo proprio in quel senso là. Allora, che utilizzo dobbiamo fare di questa faccenda? Allora, io quando sento parlare tanti compagni, no, è la legge, è questo e quell'altro, sembra quasi che noi dobbiamo protendere verso la democrazia. Un paese democratico, un popolo democratico, ma quale democrazia? Quale democrazia? La democrazia è il lupo e l'agnello che discutono a pranzo cosa mangiare. E il lupo si mangia l'agnello, ma è oggettivo, no? Perciò io penso che questa situazione della Palestina, la situazione dell'Iran, la situazione della Libia, la situazione del Libano, tutto, fa capire solo una cosa: il capitalismo non ha più mezze misure. La questione palestinese, che si è acutizzata e si è avviata una soluzione tragica per i palestinesi, mi dispiace, piango anche per loro, ma non serve a un cazzo, e la questione iraniana si inserisce in un contesto molto semplice. Gli americani sono in una crisi tremenda economica, perché anche i dazi, le fabbriche che sono andate in Cina, oggi si ritorcono contro. Io ve lo dico, magari non servirà a niente, ma ve lo dico, appena è arrivato Trump alla Casa Bianca, la seconda volta, ha praticamente tolto tutte le sovvenzioni economiche a quei gruppi Onlus che erano in Lituania, in Estonia, in Moldavia, in Ucraina, che tendevano a frenare, a controllare quello che facevano i russi. Basta, li ha lasciati senza lavoro. Perciò l'America oggi deve razionalizzare le spese, cercando di controllare le materie prime, oggettivamente, tutti i vari stretti, perché hanno interessi loro dappertutto, Hormuz, Suez, Panama, tutto loro hanno in mano. È evidente che un imperialismo come quello americano, più è grande e più sarà forte il crollo che farà. Allora, in questo contesto, noi con la questione palestinese, oltre che fare quello che possiamo, io sono dello Sly Cobas, diamo ogni tanto qualche soldino, partecipiamo alle manifestazioni, partecipiamo a queste conferenze, che francamente, vi devo dire la verità, la pensavo prima questa battuta: se andiamo avanti così, fra 100 anni non ci sarà più nessuno, perché siamo tutti vecchi, fra 100 anni saremo morti, e giovani non ce ne sono giovani, insomma. Dove sono i giovani? Compagna, non ce ne sono giovani. Ce n'è una, Ah, ottimo. Bene, queste assemblee dovrebbero essere partecipate come quelle che ho vissuto io negli anni 70, che erano 100, 200, 300 compagni che si confrontavano. L'utilizzo, e poi veramente finisco, di questa faccenda è proprio questa. Noi dobbiamo tendere a sviluppare una politica di aggregazione, di controinformazione, di organizzazione che dice due cose sostanziali. Oggi non ci sono molte strade. O la classe operaia del mondo intero si organizza nelle varie situazioni, partiti comunisti che sono extraparlamentari, che sono rivoluzionari e che vogliono abbattere il sistema del capitalismo, perché questo è il concetto di fondo. Io quando vedo tutte mani tese, i pacifisti e questi e quest'altri, tutte energie che vengono sprecate, noi dobbiamo dare una sola energia, un partito rivoluzionario che mette a tacere questo sistema del capitale. Lo so che lo dico solo io, lo dico perché secondo me è questa la strada, non ce ne sono altre strade. Le altre strade sono giustamente fare attenzione, portare all'attenzione, fare controinformazione, ma oggi non ci sono soluzioni che non un partito organizzato che possa dare sostegno a chi, anche alla Palestina, a tutti i popoli che si mettono e si oppongono all'imperialismo, e crei al proprio interno una struttura solida che possa essere capace di aggredire poi questo contesto borghese che dovrà essere buttato alle ortiche. No. Scusa, posso fare un interventino brevissimo? Il palcoscenico, andate a farlo un attimo di là. No, allora volevo solo dire una cosa brevissima. Tra tutti i prigionieri che sono stati fatti negli ultimi due anni e mezzo, purtroppo c'è una altissima quota di sanitari, perché i sanitari sono stati uno dei target preferiti in questa aggressione a Gaza. Ne sono stati uccisi più di 1720, ne sono stati fatti prigionieri più o meno 400, diversi sono morti proprio per le torture. E sono tuttora prigionieri, ostaggi nelle carceri israeliane, una novantina di sanitari. Tra questi c'è il dottor Abu Safia, che è quello forse più noto, che era il pediatra del Kamal Adwan, che era uno degli ultimi ospedali rimasti nel nord, che è rimasto fino alla fine, finché alla fine hanno dovuto, ovviamente dopo vari bombardamenti eccetera, lasciare tutti l'ospedale. Lui è stato l'ultimo a lasciarlo ed è quello che forse avete visto tutti, la scena famosa dove si avvia verso il carro armato e viene portato via. Vabbè, si sapeva già, comunque notizia pure di questi giorni, che è in condizioni assolutamente pietose perché è stato ovviamente torturato a più riprese, è malato, non viene curato perché ovviamente la non cura è una delle forme di tortura, e quindi si chiede proprio un'attenzione particolare al suo caso. Detto questo, volevo fare un piccolo momento di pubblicità, cioè dire che, come abbiamo fatto qui in Conchetta, cos'è stato, un mese e mezzo fa, avevamo fatto un'iniziativa dove c'era la presentazione di un bollettino che si occupa con la rete Tanta Salute della situazione sanitaria in Italia. Poi avevamo fatto invece, come Sanitari per Gaza, la proiezione del film Gaza Doctors Under Attack, che parla ampiamente proprio di questa cosa, quindi degli attacchi agli ospedali, al sistema sanitario e delle torture che sono state fatte al personale sanitario, tanto come tutti gli altri prigionieri ovviamente, però si focalizza molto su questo discorso. Tra l'altro bisogna anche ripetere e dire ad alta voce che questa cosa è stata fatta e viene fatta con la complicità della classe medica israeliana. E anche su questa cosa qua c'è stato un silenzio impressionante, perché sia da parte di tutti gli ordini medici italiani, ad esempio, che non si sono espressi, e ad esempio come Sanitari per Gaza noi abbiamo chiesto a più riprese di esprimersi in maniera forte su questa cosa, abbiamo raccolto 50.000 firme, più o meno 40.000 firme, e lo stesso c'è stato proprio, insomma, diciamo, si sono espressi in maniera veramente, veramente debole, e non tutti. Anche dal punto di vista internazionale, quella che è la World Medical Association, che è l'associazione che è nata dopo la Seconda Guerra Mondiale, proprio per cercare di dotare la classe medica e sanitaria di una etica e di una moralità dopo quello che era stato fatto dai medici nei campi dei nazisti, e quindi ha impostato tutta una serie di regole, eccetera. Bene, la World Medical Association non si è minimamente espressa su quello che è successo e sta succedendo a Gaza, e su quella che è la complicità della classe medica israeliana. E tra l'altro, ve lo dico così se magari interessa qualcuno, tra ottobre e novembre ci sarà un congresso di questa associazione a Rotterdam, non vorrei sbagliare, e chi vorrà si potrà unire a una contestazione, cioè a una, ci sarà una contestazione, insomma, e una richiesta del fatto che devono esprimersi e sganciare la classe, l'ordine medico e la classe medica israeliana dal, diciamo, consesso internazionale. Niente, quindi noi faremo questa iniziativa con la presentazione, come abbiamo fatto qua, del bollettino e la visione del film l'11 aprile alla cooperativa La Briola, che è in via Falck, zona Gallaratese, fermata San Leonardo. Se qualcuno è interessato, che magari se l'era persa e brama dalla voglia di venire, 11 aprile, incominciamo alle 5 e finiamo verso le 10, tutto compreso. Volevo semplicemente tornare un attimo. No, mi sembra ti ho un po' persa dopo questi interventi e mi sono dimenticata, come posso dire, schiacciata dagli interventi successivi, mi sono dimenticata della tua domanda. Tu hai detto ci sono due domande, no, che vorrei che faceste. Ecco, me la puoi ripetere per favore? No, due. Beh, si vede che me ne sono dimenticata. Comunque erano due. Una domanda riguardava la questione di Israele, come mai un paese che ha un primato nel condannare a morte persone senza neanche sapere chi sono, diciamo, visto quello che è successo in questi anni, come mai uno Stato di questo tipo abbia bisogno di ricorrere a una legge parlamentare che prevede la pena di morte per i palestinesi, esclusivamente per i palestinesi, che colpiscano degli obiettivi israeliani. Questa era la mia domanda, relativa anche, che si portava dietro la domanda di che cosa resta peraltro ai prigionieri, ora che non possono più fare lo sciopero della fame, perché la fame è diventata un'arma contro di loro, e ora che non ci sono più ostaggi dall'altra parte da scambiare, che erano i due elementi su cui fin qui i prigionieri. L'altra domanda invece riguardava l'Italia. Non so se ti riferisci a quella, all'articolo 31 del decreto. l'articolo, io mi domando perché anche lì uno Stato come quello italiano, che in questo dopoguerra ha utilizzato in tutti i modi, diciamo, sia le stragi di Stato che ci sono state, sia le infiltrazioni dei servizi segreti più o meno maldestre, più o meno riuscite nei gruppi sociali che erano ritenuti nemici, diciamo, dello Stato, come mai uno Stato di questo tipo ha avuto bisogno, ha sentito la necessità di approvare un articolo, che è l'articolo 31 del decreto legge 48 approvato l'anno scorso, il famoso decreto sicurezza di cui si è tanto parlato per il contro il dissenso, eccetera eccetera. In questo articolo 31 si dice che il Presidente del Consiglio o un'autorità da lui delegata, da lui autorizzata a farlo, può autorizzare i servizi segreti a non soltanto limitatamente, dice, alla direzione e all'organizzazione, quindi a dirigere e organizzare delle associazioni sovversive con finalità di terrorismo anche internazionale. Questa era la domanda. Qualcosa, una domanda ingenua, non lo so. Comunque volevo sapere se ci sono se c'è la possibilità e come si muove la possibilità di informazione all'interno di questa situazione palestinese, di informazioni a noi, come arrivano? Mi sono spiegata? Ti riferisci alle informazioni sui prigionieri? Informazioni, sì, sui prigionieri, sulle torture, su quello che guarda, succede. Guarda, il lavoro che ho fatto io, ad esempio, si è avvalso di documentazioni che riferiscono le testimonianze dei prigionieri che sono stati rilasciati dopo il 23 ottobre, intendo dire. Questo, il primo lavoro l'ha fatto Bezzelem e l'ha fatto nell'agosto del 2024. È un lavoro che è disponibile su internet, sul sito di Bezzelem, che si intitola Welcome to Hell, Benvenuti all'Inferno, e dove vengono raccolte le testimonianze di una sostanzialmente una cinquantina di persone, di prigionieri, penso tutti maschi, che sono stati rilasciati, ma che sono prevalentemente, e anche questo secondo me è estremamente interessante rispetto alla locuzione guerra Israele-Hamas, queste sono persone che vengono arrestate a volte persino prima del 23 ottobre e nella Cisgiordania occupata o a Gerusalemme Est, e che poi subiscono tutte le torture, tutte le storie che ci hanno raccontato. L'altro documento è un documento che viene fatto invece dai medici per i diritti umani in Israele e riferisce dei morti, i morti in custodia israeliana, e riporta le storie, le documentazioni di 73 di questi morti. Questi 73 morti, alcuni dei quali sono riferiti da altri prigionieri rilasciati che li hanno visti morire in carcere. Lei parlava prima dei medici, e una delle storie che loro raccontano è proprio quella di uno di questi medici che, dopo essere stato, era uno dei primari di Al-Shifa, con tutta la storia che c'è stata già ad Al-Shifa, abbiamo quest'uomo che viene arrestato, torturato, e viene un giorno portato nel carcere, 4 mesi dopo essere stato arrestato, viene buttato nel cortile dell'aria del carcere, non sta in piedi perché è ridotto in fin di vita, degli altri detenuti lo prendono, lo portano in cella, ma dopo pochissimo che lui è stato portato in questa cella, loro sentono che i suoi compagni di cella gridano che è morto, quindi questa dimensione, non me lo ricordo il nome, dovrei cercarlo su lì, forse. E quindi dico, queste sono le testimonianze che sono state raccolte, e sono state raccolte dall'ONU e da organizzazioni dei diritti umani, che sono sia palestinesi che non solo. Poi ci sono delle testimonianze raccolte da, per esempio, Orient 21, che è questa rivista di Alan Gresh, di cui noi abbiamo pubblicato anche il libro Palestina, un popolo che non vuole morire, che loro hanno raccolto le testimonianze prevalentemente dei militanti che sono stati esiliati, queste 250 persone uscite con l'ultimo scambio di ottobre 2025, che essendo persone che avevano pene alte, condanne all'ergastolo, alcuni di loro erano scrittori, mi ricordo questo discorso che facevi tu all'inizio degli scrittori, dico anche che alcuni di questi appunto rilasciati hanno potuto pubblicare dei loro libri durante la loro detenzione, grazie a iniziative come quella che tu avevi sollecitato all'inizio, anche se negli ultimi 2 anni e mezzo anche chi ha scritto in altri tempi non ha più potuto farlo, perché così come ancora oggi capita in Italia in regime di 41 bis, non è possibile per loro tenere carta, penna, libri. E c'è un accanimento particolare peraltro sui libri religiosi come il Corano e cose di questo genere. Sono informazioni che arrivano. Allora, considera che i detenuti oggi, questi prelevati dopo il 7 ottobre e chiusi comunque dentro, non possono vedere i loro, per questo si parla anche di tanti scomparsi. Mi è stato chiesto l'altro giorno da un signore qui di Milano se avevo l'elenco dei prigionieri palestinesi. Cioè è un elenco che forse avrà l'IDF, ma forse neanche, cioè è talmente massificata, noi dobbiamo riuscire a immaginare questa massificazione degli arresti, che non hanno più uno scopo identificativo. Quello poteva avercelo una volta, oggi Israele ha dei database in cui conosce perfettamente vita, morte, miracoli di uno da quando nasce a quando cresce in quel piccolissimo territorio, quindi facilissimo anche da controllare con tutti gli strumenti di riconoscimento facciale che ha. Quindi non c'è affatto un problema di individuazione, c'è un problema di prendere le persone e possibilmente farle sparire, perché la sparizione forzata è uno degli elementi, ma io penso che anche quello di sottoporre una persona, proviamo a immaginare anche un po' noi stessi, cioè sottoporre un essere umano che è quindi fatto di carne, ossa, sangue, tendini come tutti noi, sottoporlo per degli anni a delle torture sistematiche continuative, e è anche un modo di farlo un po' sparire, ecco, io penso.